Salve, salve a tutti quanti chi sta ascoltando. Benvenuti su Nerdcast. Nerdcast è appunto un nuovo podcast che conduco praticamente da solo. Io sono Francesco. Cercherò di trovare un nickname comunque perché il mio nome da solo è troppo lungo e impronunciabile. In ogni caso, benvenuti appunto su Nerdcast. Come avrete visto, per chi di voi ha letto la descrizione, in ogni caso è un podcast insomma dedicato a un po' al mondo, sì, dei videogames, ma comunque è anche dedicato a un po' alla tradizione giapponese, al Giappone in generale, manga, anime, anche musica. Diciamo più incentrata su rock metal, che poi è la musica che insomma cercherò di passare e che personalmente insomma adoro, mi piace. E oltre comunque a questi due aspetti, mi piacerà comunque parlare anche di aspetti di attualità. Che sia politica, che sia di qualsiasi altra cosa, perché comunque non mi andava insomma di creare un podcast definito soltanto per una fascia di ascoltatori. Diciamo che comunque il target può sembrare diciamo, concentrato più sulla fascia dei gamers. Perché comunque chi conosce il termine nerd di solito fa parte un po' di questa fascia, no? Dunque, da dove proviene insomma spiega un attimo la parola nerdcast, perché l'ho voluto chiamare nerdcast. In realtà è stata una scelta abbastanza difficile, perché come ho detto prima, appunto non volevo che insomma il pubblico, l'audience fosse soltanto di un genere, però alla fine ho scelto Nerdcast perché insomma mi piaceva come nome, nonostante comunque ci siano altri podcast che si chiamano Nerdcast, ma nessuno italiano, dunque insomma ho colto l'occasione. Perciò appunto Nerdcast proviene dal connubio, da questo connubio di parole tra appunto nerd e la parola cast. Nerd, per chi non lo sapesse, è un po' una parola per descrivere generalmente un secchione, ma neanche troppo, cioè un nerd è colui che alla fine è un super appassionato, è un super esperto soprattutto di ciò che ha a che fare per esempio con PC, quindi hardware, software, anche in questo caso anche videogames, ma anche un nerd in generale può essere considerato un nerd di qualsiasi tipo di disciplina. Di solito comunque non ha a che fare sicuramente con discipline sportive, eccetera. Dunque appunto nerd per me è una parola che racchiude un po' tutto, perché insomma per me ciò che ha a che fare col mondo giapponese, col mondo dei videogames, anche col mondo dell'attualità in un certo senso può essere definito, perché no, tutto con una sola parola che appunto secondo me è nerd. Poi non lo so, potranno essermi mosse varie critiche, però io credo che non ci sia un vero e proprio significato per la parola nerd. Detto questo appunto, ovviamente Nerdcast, cast proviene dalla parola podcast, praticamente la maggior parte dei podcast hanno come parola finale cast. Nel corso comunque della produzione di Nerdcast cercherò ovviamente di migliorare, perché mi rendo conto che anche adesso magari mentre parlo starò facendo qualche errore magari di registrazione, nonostante abbia fatto varie prove. E per questo insomma vi invito a mandarmi una mail, a scrivermi all'indirizzo del podcast, che è nerdocast@gmail.com. cioè Nerdocast, ovvero sia nerd che cast tutto attaccato, soltanto con una O in mezzo a nerd e cast, dunque Nerdocast, tutto attaccato, chiocciola@gmail.com. Non lo so, qualunque tipo di critica va bene. Non mi aspetto sicuramente degli elogi subito. Anzi, vi invito a cercare insomma ciò che non vi piace di più del podcast, sempre se avete voglia di sentirlo fino alla fine. Comunque, appunto, questo per me è il primissimo podcast, nonostante comunque abbia avuto varie influenze da molti altri podcast, perché comunque sono un ascoltatore assiduo di podcast, ne scopro sempre di nuovi, ne ascolto comunque sempre qualcuno al giorno. Comunque nel corso delle puntate, forse anche dopo in questa puntata, mi andrebbe di consigliarvi alcuni dei podcast che ascolto, non soltanto riguardo appunto videogames, ma anche magari riguardo qualcos'altro, perché comunque è bello spaziare di argomento in argomento. Un'altra cosa per quanto riguarda la musica, e poi finisco questa introduzione lunghissima, già lunga per un podcast, credo non ci sia mai stata così lunga un'introduzione di un podcast. Per quanto riguarda la musica, appunto, so che comunque la maggior parte dei podcasters nei loro podcast utilizzano musica Podsafe, presa soprattutto da un sito che è Jamendo o Jamendo.com. E ciò più o meno che ho fatto anch'io, perché non mi sono trovato insomma di fronte a varie difficoltà, insomma, con SIA e tutto il resto. Quindi anch'io ho preso musica da Jamendo, però fatemi dire che avrei voluto incentrare la musica del podcast su un genere in particolare, che è quello del J-Rock, ovvero Japanese Rock, perché insomma anch'io mi sto appassionando pian piano a questo nuovo tipo di musica, che poi alla fine è rock, però è un rock non so, leggermente diverso, che io trovo interessante, che appunto è prodotto da artisti giapponesi, che fanno parte anche del movimento Visual Kei, di cui parlerò credo dopo. E insomma, mi sarebbe piaciuto farvi ascoltare un po' di artisti J-Rock, un po' di canzoni J-Rock, ma mi sa che per il momento non è possibile farlo. Ho deciso che però se mai dovesse as qualcuno ascoltare questo podcast, mi impegnerò affinché insomma possa avere una qualche licenza per poter passare qualche canzone, perché secondo me è davvero molto interessante, comunque si attiene molto all'argomento del Giappone. Detto questo, appunto, passerei alla prima canzone che ho preso, come ho detto appunto prima, da Jamendo.com. Essendo io un grandissimo estimatore, come ho detto, dell'heavy metal, soprattutto del power metal, sono andato a spulciare un po' tra gli artisti power metal e ho trovato gli Anima Adversa, che sono appunto una band power metal spagnola, sì, spagnola. Ho ascoltato un po' delle loro canzoni, devo dire molto bravi. Questa appunto è una delle loro canzoni, si chiama Nautilus. No.

credo di conoscere anche abbastanza bene il gioco. E non lo so, io vi consiglierei anche di provarlo, perché comunque da un anno a questa parte, se non sbaglio, l'abbonamento comunque mensile è diventato molto più abbordabile. Sono quasi all'incirca, ma non proprio, sono quasi, diciamo, 30 euro 3 mesi. Che comunque, insomma, per un giocatore di World of Warcraft non dovrebbero essere fin troppi. E ovviamente, se odiate gli RPG, non fate questo acquisto inutile, perché ovviamente perdereste soltanto tempo e soldi. Comunque, io vi consiglierei di provarli in qualche modo. Se andate sul sito, insomma, c'è la demo da provare di 10 giorni, scaricabile. Mi pare che è WoW, sì, dovrebbe essere WoW, ovvero www.europe.com, che è il sito europeo di World of Warcraft. Dovrebbe essere in alto a destra, dovrebbe esserci, insomma, un avvertimento che vi invita a provare il demo, la demo, per mi pare 10 o 15 giorni. Comunque, appunto, perché sto parlando di World of Warcraft? Parlo di World of Warcraft perché effettivamente è, io credo personalmente, il gioco in cui succedono le cose più inaudite, più strane, appunto prodotte dagli utenti stessi. Una cosa, appunto, che ha a che fare con World of Warcraft, una di queste cose abbastanza strane che ho letto praticamente, mi pare, ieri, appunto una riproduzione delle riproduzioni di diciamo festival o festività che avvengono nella realtà, dunque nel mondo, all'interno del gioco. Cosa voglio dire, in altre parole? Qualche giorno fa c'è stata a San Francisco una sorta di parata, o comunque un festival dedicato ai gay, alla comunità dei gay, dunque una sorta di gay pride per tutta la città. E è stato comunque un ritrovo di omosessuali globale, insomma, è stato un festival non dedicato soltanto ai agli abitanti di San Francisco, appunto, ai Los Angelini, ma comunque era un qualcosa aperto a tutti gli omosessuali del mondo che volessero partecipare, insomma, una delle festività più importanti, credo, per il panorama omosessuale. Cosa c'entra questo? È successo, appunto, che nella stessa giornata, in un server americano, se non sbaglio, di World of Warcraft, la maggior parte dei PG giocanti su quel server si sono riuniti tutti quanti per, insomma, riprodurre questa parata anche nel mondo virtuale di World of Warcraft. Qual è la cosa, insomma, interessante? È che comunque la maggior parte dei PG omosessuali, diciamo, dunque coloro che sono omosessuali nella realtà, hanno partecipato proprio alla parata, dunque hanno avuto modo di partecipare, anche se abbastanza indirettamente, alla festività, al festival. E da quello che ho visto, perché ci sono i video documentati, se andate su YouTube e cercate lo trovate sicuramente, da quel che ho visto è stato qualcosa di colossale, cioè i player giocanti erano davvero tantissimi. Dubito che fossero tutti, diciamo, omosessuali, perché comunque vi erano dei PG anche donne, di femmine, insomma. Però è stato davvero una cosa molto interessante, direi anche importante e simpatica nello stesso tempo, perché comunque questo ci fa capire come ormai, nonostante ci siano tantissimi pregiudizi ancora in giro, la comunità dei gay comunque sta diventando sempre più accettata, e comunque adesso gli omosessuali hanno meno paura ad uscire, insomma, allo scoperto, tra virgolette. In più, appunto, è stata anche diciamo, una manifestazione molto, molto lunga, perché da quel che ho visto, insomma, dal video che ho visto, tutti i player sono andati un po' in giro, per le varie località di World of Warcraft, che comunque sono, abbastanza numerose, e, insomma, è stata una, diciamo, una manifestazione molto carina anche all'interno del gioco. Non so, io non credo ci avrei partecipato, perché comunque chi è andato là chi ha partecipato, insomma, alla manifestazione, pur non essendo, insomma, omosessuale, comunque forse l'ha fatto giusto per non so, non direi per farsi vedere, però insomma siamo là, insomma non l'ha fatto sicuramente per orgoglio gay in un certo senso. Dunque io sinceramente non avrei partecipato, poi comunque l'avvertimento della festività è arrivato anche a me, che comunque sono un giocatore europeo, e dunque devo dire che è stato qualcosa di davvero, davvero grande. Un'altra cosa che mi ha colpito abbastanza, ed è una cosa che ve lo dico da adesso, insomma, è un argomento che hanno trattato almeno due dei podcast che ascolto assiduamente, che sono Nowherecast e Ringcast, che vi consiglio, che sono podcast davvero molto ben fatti. Appunto, sia questi due podcast hanno parlato di un argomento che comunque mi ha incuriosito davvero tanto. E comunque sono andato ad approfondire in questi giorni. Sto parlando di ciò che è successo a Parade Bay, mi pare qualche mese fa, durante, non so, mi pare verso gennaio o dicembre. Spero di non sbagliarmi. Parade Bay, ancora per coloro che non sapessero cos'è Parade Bay, è un sito, diciamo un po' l'antitesi di quello che è Google. Che permette in un certo senso di andare a cercare un file da scaricare. Se avete voglia di vederlo, perché comunque il sito è ancora online, è theparatebay.org. Devo fare lo spelling, che è meglio. Allora è the, scritto appunto the, l'articolo inglese, pirate, cioè pirate, bay, bay.org. Ovviamente prima mettete www. Andate a vederlo e comunque scoprirete che è molto simile a Google, però è praticamente l'antitesi, perché anche il bottone per andare che serve per iniziare la ricerca, insomma, fa capire che ciò che state per andare a fare è una ricerca pirata. Comunque, che è successo a paratebay.org? Credo sia .org, non vorrei sbagliarmi. Comunque, se non è .org è .com. Che è successo? È stato, appunto, i fondatori di Parade Bay sono stati arrestati, mi pare anche condannati, per appunto aver aperto questo sito, comunque, che dà la possibilità di fare delle ricerche pirata. Appunto, avendo saputo questo, la comunità dei sì, non solo dei gamers, comunque la comunità di internet si è ribellata totalmente. Ci sono state tantissime proteste. Ho visto anche personalmente varie diciamo tante varie firme raccolte per appunto cercare di boicottare questo processo a Parade Bay, o comunque offrire il sostegno ai fondatori di Parade Bay. Una delle diciamo delle manifestazioni di sostegno più grandi, secondo me, riguardo questo, è la creazione del Partito Pirata in Svezia. Il Partito Pirata si è venuto a creare davvero dopo, ma davvero dopo pochissimo tempo che insomma, Parade Bay era stata condannata appunto di pirateria, e appunto lo stesso partito pirata si è iscritto alle europee per quanto riguarda appunto le votazioni in Svezia. Se volete approfondire questo punto, insomma, andate ad ascoltare il podcast di City 17, che è un altro bellissimo podcast che parla di attualità e politica. Appunto, City 17 è scritto CITY17 a numero, però è un podcast italiano, appunto. Appunto, per quanto riguarda la candidatura del Partito Pirata in Svezia, è stato, secondo me, un traguardo incredibile, perché appunto è riuscita ad arrivare al 7%, il Partito Pirata è riuscito ad arrivare al 7%, se non sbaglio, comunque attorno al 7%, guadagnando così alcuni seggi al Parlamento europeo, che rappresenteranno dunque la partizione, il partito del Partito Pirata, appunto. Non solo comunque la creazione del partito è stato qualcosa di eccezionale, almeno credo personalmente, ma ci sono state tantissime altre petizioni per tutto il web, e comunque sono state fatte anche tante altre insomma, tante altre iniziative per aiutare comunque Paris Bay a vivere, continuare a vivere. Per esempio, se andate sul sito di Pirate Bay, quello che ho detto prima, dovreste trovare alcuni link che portano alla vendita ufficiale delle magliette di Pirate Bay o comunque del Partito Pirata. Ma io vi consiglierei comunque di dargli un'occhiata, perché secondo me è davvero interessante andare a vedere un po' questo movimento, come si è evoluto un po' tutto ciò che è stato fatto per cercare di mantenere attivo il sito, e tuttora è attivo, dunque vuol dire che tutto ciò che è stato fatto ha avuto un senso. E secondo me è davvero una grande conquista, comunque ha un grande significato, il significato che comunque il web ancora ha una potenza grandissima di attrarre non solo coloro che passano, insomma, la maggior parte del loro tempo al PC, dunque appunto i nerd, ma anche le persone normali. Ho pensato pure che comunque se il Partito Pirata, in questo caso il partito di Pirate Bay, ha avuto il 7%, vuol dire che perlomeno la fascia dai 18 ai credo ai 25, ai 30 anni si sia concentrata soprattutto sul voto di Pirate Bay, cioè sul voto del Partito Pirata. Dunque la maggior parte della popolazione giovane ha deciso di votare proprio per il Partito Pirata, e secondo me è davvero una cosa molto interessante, che comunque nel mondo della politica è difficile che accada, almeno negli ultimi tempi è difficile, soprattutto in Italia poi. E comunque, andando a spulciare su internet, ho visto che il Partito Pirata non si è accontentato soltanto del 7% ottenuto alle europee, ma sta iniziando a creare delle filiali un po' per tutto il mondo. Esiste anche la filiale italiana, da quello che ho capito, perché il sito che sono andato a trovare non è un vero e proprio non è un vero e proprio sito di partito, cioè non lo saprei descrivere. Se volete andarlo a vedere, www.partito-pirata.it. Appena entrate, appena vi scarica il sito, potete entrare, e c'è già un grandissimo avvertimento che parla appunto della condanna imputata ai creatori di Pirate Bay di 1,9 milioni di dollari per 24 canzoni. C'è scritto proprio così, potete andarlo a vedere, è molto interessante. E da quello che ho visto, comunque, me ne sono reso conto proprio alla fine delle europee, quando ho scoperto questo sito, c'era un candidato, che però era con Sinistra e Libertà, col partito Sinistra e Libertà, che sosteneva però la causa di Pirate Bay, ed è una sorta di candidato hacker, insomma. Vi lascio a voi la, insomma, il piacere di andare a scoprire, perché insomma, avere un candidato, anche un candidato hacker per Sinistra e Libertà, che comunque sostiene Pirate Bay, è una cosa che un po' mi ha sorpreso in un certo senso. Detto questo, dopo aver fatto un po' questa bella discussione, non proprio sul gaming, ma ciò che riguarda un po' il videogaming, curiosità sul videogaming, io vi lascerei con un'altra canzone, ci rivediamo dopo. Questa volta non sono andato su jamendo.com, ma bensì, non si dice, ma vabbè, ma sono andato su podsafeaudio.com per un bel blues che si chiama Got My Blues di Leif Williamson. Eccolo qua. Give me sugar in my coffee, teaspoon of cheese upon my food. Give me sugar in my coffee, teaspoon of cheese upon my food. Well, cheat and I gamble, and I ain't playing by the rules. Sometimes I'm happy for the things I did. Sometimes I'm sad for the things I said. I cheat and I gamble, and I ain't nobody's fool. Nessun gamer che magari si aspettava qualcosa di meglio. Cioè, ho preferito per la prima puntata di mantenere le cose abbastanza basse, tra virgolette. Per quanto riguarda appunto un'altra sezione che voglio introdurre, appunto si parla di Giappone. Giappone, riguardando appunto ciò che rende famoso questo paese, ma anche ciò che non tutti conoscono, cioè alcune curiosità che secondo me sono davvero molto interessanti e che si possono vedere soltanto in questa bellissima terra molto originale, molto interessante. Volevo parlare anche di Giappone per il fatto che comunque sono un lettore di manga e un grandissimo fan di anime, cioè l'animazione giapponese. Ormai da tantissimo tempo leggo tantissimi manga, guardo tantissimi anime. Credo che comunque nel corso delle puntate ne consiglierò alcuni, magari quelli che scopro nel corso del tempo, perché secondo me davvero sono una produzione molto molto ben fatta per la maggior parte. E poi comunque tutti noi, anche se magari non ci facciamo caso, quando eravamo piccoli, diciamo, più piccoli, comunque siamo cresciuti soprattutto con i cartoni giapponesi, perché cartoni americani o comunque europei, tra virgolette, erano difficili da trovare, comunque anche adesso sono difficili da trovare. Magari cartoni americani potevano riguardare i supereroi della Marvel, che comunque sono insomma supereroi ben fatti, cioè comunque sono delle storie ben fatte che mi piacciono pure in ogni caso, ma che forse insomma non ci sono rimaste impressa nella memoria come è stato per i cartoni giapponesi. Adesso non mi va di citarne alcuni perché sarebbero davvero, davvero tantissimi. E appunto dal fatto, partendo dal fatto appunto che un po' tutti siamo cresciuti con i cartoni giapponesi, ho voluto in un certo senso continuare a guardarli e non me ne pento assolutamente, anzi mi appassionano uno più dell'altro. Per quanto riguarda invece i manga, alla fine i cartoni giapponesi sono per la maggior parte tutti presi da manga, poi comunque, anzi, molte delle serie dei cartoni tagliano delle parti di manga per non creare troppe puntate, come è successo un po' come tutti credo sappiano per Dragon Ball, che comunque come manga non è eccessivamente lungo, insomma, è stato reso come anime davvero molto molto lungo, secondo me abbastanza male, anche se alla fine la storia ormai la conosciamo praticamente tutti, perché ci viene riproposto ormai da anni, da anni, da anni. Appunto i manga forse sono meno conosciuti in Italia, più che altro in Europa, di quanto lo siano in America e sì, sicuramente ovviamente in Asia. In Giappone i manga sono un po' come i giornali nostri, cioè se noi per esempio andiamo dal dentista, abbiamo un appuntamento col dentista, andiamo, dobbiamo aspettare che finisca il turno di qualcuno, magari noi in Italia troviamo un giornale da leggere, dei giornali da leggere per aspettare, passare un po' il tempo. In Giappone invece quando si aspetta dal dentista si leggono manga. Perché è così, anche quando si aspettano le metropolitane o i treni per un periodo di tempo, ci sono proprio diciamo, delle postazioni dove si possono prendere dei manga da leggere aspettando il treno che appunto arriva. Quindi è proprio una stranezza che però io trovo sia totalmente una figata. Perché per i fan, insomma, andare ad un appuntamento, comunque aspettare leggendo un manga è praticamente fatica zero, praticamente. Oltre agli anime, vi consiglierò anche alcuni manga. Cerco di consigliarvi i manga che escono dal primo numero, perché mi rendo conto che consigliare dei manga così, magari al numero 25 per dirvi, non è molto molto saggio. O comunque potete andare su eBay o su qualunque altro sito di offerte e cercare il primo numero dei manga, se vi fidate ovviamente dei miei consigli. Posso dirvi che però nella la scorsa settimana, se non sbaglio, proprio per parlare della cosa più banale possibile riguardo i manga, è uscita una nuovissima riedizione, l'ennesima riedizione del manga di Dragon Ball Z, dal primo numero, che io ho comprato, ho visto, ma non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta, direi, quasi per niente, perché ho scoperto poi dopo l'acquisto, come un idiota, che alla fine era la storia riprodotta, prendendo non i disegni originali di Akira Toriyama, che appunto è lo scrittore, cioè colui che ha disegnato e scritto la storia di Dragon Ball, ma il manga era strutturato con delle immagini, dei fermo immagini prese dal cartone. Quindi era come vedere, non lo so, il cartone di Dragon Ball, però con le immagini ferme. E non mi è piaciuto assolutamente. Comunque, credo che alla maggior parte possa piacere. Cioè, io sono un purista, insomma, del manga, e a me dà fastidio, insomma, vedere queste cose. Però mi rendo conto che, comunque, anche per iniziare è una cosa buona, è un'esperienza buona, è una lettura davvero consigliata. Però in Giappone ciò che mi appassiona non è soltanto manga, non è soltanto anime, ma da un po' di tempo a questa parte, come ho detto nell'introduzione, è anche la musica. Perché ho scoperto proprio che la musica giapponese è quasi totalmente diversa dalla musica come la intendiamo noi, anche la musica acustica, soprattutto il rock. Il rock giapponese si rifà spesse volte ad un movimento che è proprio del Giappone, che è venuto a crearsi, mi pare, negli anni 80, con una band che si chiama Mix Japan, che vi consiglio, appunto. Non posso mettere canzoni di Mix Japan, però potete andarle a vedere anche su YouTube. Mix Japan, appunto, sono considerati coloro che introdussero il Visual Kei. Cos'è il Visual Kei? È una sorta di movimento che, diciamo, di cui fanno parte quasi tutti gli esponenti del rock giapponese. Che cos'ha di particolare questo Visual Kei? Ha di particolare il fatto che quasi, diciamo, i componenti della band J-Rock si vestono in modo alquanto, qualcuno potrebbe dire, bizzarro. In realtà vestirsi in un certo modo per i cantanti e i musicisti giapponesi, soprattutto del rock, ha un grande valore. La maggior parte dei visual kei comunque hanno degli artisti visual kei comunque presentano degli stili molto originali e molto interessanti, che comunque catturano appena li si vede, insomma. Magari la maggior parte di voi che magari andranno a vedere alcuni di questi artisti visual kei faticheranno a credere che, insomma, praticamente tutti i membri delle J-Rock band sono dei maschi, perché appunto il trucco o i vestiti che utilizzano ci ricordano vagamente, insomma, la cultura femminile, insomma, dello stile. Però, insomma, se uno si ci abitua, se uno inizia ad ascoltare un po' di band J-Rock, inizia a capire che comunque è una cultura molto interessante, almeno lo è per me. E comunque, cioè, siamo portati poi a capire come alla fine, cioè, gli artisti J-Rock stiano diventando sempre più stilosi, perché sì, sinceramente hanno stile, e lo dobbiamo ammettere, bisogna ammettere che hanno stile. Cioè, andate a vedere, basta scrivere Visual Kei su Google, cercate le immagini e sì, dovrete poi ammettere che hanno stile, non c'è nient'altro da dire. Come ho detto prima, appunto, anche la musica stessa J-Rock non è una musica da poser, come in effetti io credevo all'inizio, perché credevo, insomma, che la maggior parte degli artisti visual kei si vestissero in quella maniera per attrarre il pubblico, insomma, più poser, quelle le ragazzine falsemo di 15 anni, eccetera, che personalmente io odio proprio dal profondo. E credevo questo, insomma, che fossero un po' tutti la riproduzione mal riuscita dei Tokyo Hotel. In realtà poi, con l'aiuto di una mia amica, che ringrazio, le ho ascoltati bene, e devo dire che ci sono molte band J-Rock che fanno davvero buona musica, e mi sarebbe piaciuto, insomma, farla ascoltare anche a voi, chi mi sta ascoltando, appunto, perché secondo me davvero merita tanto. Però, cioè, devo ammettere che comunque ci sono molte band J-Rock che comunque hanno un successo immeritato, perché ci sono delle canzoni orribili, ma comunque per ogni cosa ci sono pregi e difetti. E per quanto riguarda ancora la cultura giapponese, chiudo perché mi sto dilungando davvero tantissimo. Io volevo parlare un po' della città più importante del Giappone, che comunque è una delle città più industrializzate del mondo da soli 50 anni, 40 anni. Sto parlando ovviamente di Edo. Edo, come è conosciuta però nella storia giapponese, al giorno d'oggi è conosciuta come Tokyo. Che per chi è in ascolto, per precisare, non si scrive come Tokyo Hotel con la I, ma con la Y, che è il modo giapponese di scriverlo. Lo so, è un po' stupido da dire, però fidatevi, la maggior parte delle persone credono che Tokyo si scriva con la I. Vabbè, appunto, Tokyo, volevo parlarvi di Tokyo perché secondo me è proprio, oltre ad essere la capitale del Giappone, è capitale vera e propria di questo strambo movimento un po' di visual kei, e non solo. Ci sono varie, cioè Tokyo, la città di Tokyo è divisa in varie aree, che sono chiamate, insomma, prefetture. Le varie prefetture, vari distretti, sono comunque uno diverso dall'altro. Ci sono tantissimi distretti interessantissimi. I primi distretti che, insomma, mi vengono in mente, ma comunque ce ne sono davvero a bizzeffe, i primi che mi vengono in mente, perché comunque sarebbero i primi che andrei a visitare, sono i distretti di Akihabara, che appunto è un distretto molto famoso per avere, insomma, la maggior parte dei negozi relativi alla vendita, insomma, di hardware e software, dunque fatto apposta per i gamer, e dove si possono trovare le offerte migliori per appunto comprare un videogioco, comunque una console, eccetera. È un altro distretto davvero uno dei migliori, secondo me, molto interessante da andare a vedere sicuramente, è il distretto di la prefettura di Shibuya, credo sia una prefettura. La prefettura di Shibuya. Nella prefettura di Shibuya cosa c'è di particolare? Alla fine i ragazzi, soprattutto, che camminano per Shibuya hanno uno stile molto simile a quello del visual kei, ovviamente non relativo alla musica, però relativo alla vita di tutti i giorni. Cioè, mi ha fatto davvero piacere scoprire che in effetti molti dei ragazzi, dei giovani che si trovano a Shibuya vestono in modo davvero particolare, un modo che, insomma, se uno di noi lo vedesse per strada, se uno di noi vedesse un ragazzo di Shibuya vestito alla maniera di Shibuya, probabilmente chiamerebbe i carabinieri, non lo so, perché è davvero molto interessante come stile, e vi suggerisco di andare a cercare anche qualcosa riguardo questo, perché davvero secondo me è una cosa molto simpatica. Una cosa anche più importante, secondo me, per quanto riguarda il distretto di Shibuya, un po' il punto dove la maggior parte dei giovani di Tokyo si riuniscono, che è la statua del cane Hachiko, o Hachiko. Perché questa statua è così importante? In realtà è semplicemente una statua normalissima, raffigurante un cane che si chiama appunto Hachiko, e non è neanche fin troppo grande, quindi non è una grandissima opera. Però è molto riconosciuta, è molto importante, perché appunto è un monumento. Vi spiego brevemente la storia di Hachiko. Appunto Hachiko era un cane che seguiva assiduamente non proprio il padrone, ma comunque un uomo a cui si era affezionato, che accompagnava fino alla stazione praticamente ogni giorno, e poi praticamente aspettava al ritorno. Dunque l'accompagnava alla stazione, e poi il cane ritrovava il padrone quando scendeva alla stazione dei treni. Dunque insomma il padrone, che comunque era quest'uomo, e il cane Hachiko avevano creato una sorta di amicizia tra di loro. Succede però che in un viaggio del padrone, in un viaggio dell'uomo, quell'uomo accidentalmente muore per un incidente. Ma nonostante fosse morto, comunque il cane ha continuato per ben 11 anni ad andare alla stazione per aspettare il ritorno del padrone, nonostante comunque il cane non avesse capito che il padrone ormai non c'era più, che comunque il padrone ormai era deceduto, ormai era morto. E ogni giorno, dopo la morte dell'uomo, il cane Hachiko si recava sempre agli stessi orari alla stazione, come per accompagnare virtualmente e andare a riprendere l'uomo che ha aspettato fino alla sua morte. La storia di Hachiko ovviamente si è diffusa un po' per tutto il Giappone, ha fatto tantissimo scalpore, tanto che appunto uno scultore giapponese decise di riprodurre una statua con le sembianze di Hachiko e metterla appunto al centro di Shibuya. Credo che sia proprio per questo che comunque nel tempo la statua di Hachiko sia diventata così famosa. Alla fine non è un grandissimo spettacolo per gli occhi, però è davvero, diventa bella comunque conoscendo il vero valore che gli è stato attribuito all'inizio appunto della scultura. Non so, potete giudicare voi, potete scrivere Hachiko, è scritto Hachiko, su Google sempre, potete andarlo a cercare e sicuramente vi uscirà come primi risultati. E non so, potete anche scrivermi, ditemi un po' cosa ne pensate un po' anche voi della statua. Io, come ho detto, personalmente credo abbia un grandissimo valore e sinceramente quando andrò in Giappone, se mai ci andrò, ma credo di sì, per andare a visitare un po' il Giappone, credo che insomma una delle mie tappe principali sarà proprio la statua di Hachiko, e scatterò un casino di foto praticamente solo alla statua. Bene, detto questo, rimanendo sempre in tema, è il momento di un'altra bella canzoncina, questa volta però presa da Jamendo.com. È un artista giapponese che non fa parte però del movimento Visual Kei, perché comunque non è rock. È abbastanza interessante. Forse ai più di voi non piacerà, non lo so. Comunque io ve lo propongo perché insomma mi piace anche spaziare un po' nei generi musicali. L'artista si chiama Higashi Tonden e la canzone si chiama Mountain. giapponese. Io, prima di passare verso la fine, credo di non aver specificato bene la scrittura del termine Visual Kei. Appunto si scrive Visual, proprio detto Visual, Kei invece scrive Kei. Perché dico questo? Perché sto continuando a fare precisazioni sulla scrittura dei nomi che dico? Perché, non perché credo che i miei ascoltatori, insomma, siano degli idioti, anzi io credo sia un idiota perché per la maggior parte dei podcast che ascolto, quando vengono, insomma, denominati dei siti, dei nomi che non sono in italiano, comunque a volte quando voglio andare a ricercarli non li so scrivere, insomma, sbaglio la scrittura perché non so bene la scrittura quale sia. E dunque, insomma, per il bene un po' di tutti, mi piace specificare bene la scrittura dei nomi e dei siti che dicono degli indirizzi. Per quanto riguarda quest'ultima parte, io prima di tutto vorrei ricordarvi nuovamente dell'indirizzo email, che è nerdocast, @gmail.com, poi comunque lo scriverò. Mentre potete venire sul sito dedicato appunto al podcast, che è www.nerdcast, scritto appunto come il podcast, www.nerdcast.mypodcast.com, dove insomma aggiornerò un po' l'uscita dei podcast. Vi consiglierei anche di abbonarvi al feed RSS. E un po', insomma, se siete abbonati ad altri podcast sapete bene come fare, basta cliccare, insomma, o su abbonati su iTunes oppure andare sul sito che vi ho appena detto e prendere appunto il feed RSS. E per quanto riguarda l'ultima parte del podcast, io la vorrei un po' tutte le volte dedicare a un po' a discutere un po' dei temi di attualità e di politica, un po' di cazzeggio generale. Ciò che vorrei farvi presente è una cosa molto molto simpatica. Io credo, appena l'ho sentito, vi giuro, ho fatto i salti di gioia perché è davvero un'iniziativa simpatica. Se sempre se andrà in porto, sembra che sia già disponibile. Di cosa sto parlando? Sto parlando del wifi gratuito a Venezia. Ci spostiamo quindi dal Giappone, ritorniamo di nuovo in Italia. E Venezia è la città in questione perché appunto credo il comune, da quello che ho capito, abbia reso possibile, insomma, abbia reso gratuito l'accesso alla rete wifi della città. Ne ho parlato un po' con, insomma, i miei amici, insomma, alcuni dicevano che già c'era da prima. Io credo, io non l'avevo mai sentito, comunque credo sia una cosa davvero eccezionale perché io sono tra quelli che dicono che una rete wifi, insomma, dovrebbe essere attiva un po' per tutti quanti. Una rete wifi gratuita nelle città dovrebbe essere un po' attiva per tutti quanti. Da quello che ho visto, quindi, insomma, si potrà navigare comodamente. Che ne so, sulla gondola, boh. Comunque è una bellissima notizia, una bellissima iniziativa. Credo sia disponibile un po' per tutti, credo anche per gli studenti. Dunque, se dovesse essere così, insomma, non ci penserò due volte insomma, a prendere come opportunità di studiare all'università, anche l'Università di Venezia. Chissà, vediamo. Oltre a questo, vorrei parlarvi invece di un'altra cosa, che credo sia sulla bocca di tutti comunque, che in realtà è diciamo, aperta davvero al pubblico, soltanto che non molti di noi credo se ne siano accorti. Io personalmente vado su YouTube almeno una volta al giorno, quando mi capita, per andare a ricercare insomma vari video. Ieri, distrattamente, ho visto praticamente in alto, sulla pagina in alto, cioè sul tetto della pagina di YouTube ho visto un link che portava ad un che porta ad un portale, scusate il gioco di parole, dedicato solamente alla diciamo ai video girati dai manifestanti per quanto riguarda appunto i diciamo la ribellione della dittatura che c'è in Iran. Appunto tramite questo portale, adesso vi dirò il sito corretto, completo, ho notato insomma tantissimi video che per la maggior parte YouTube dovrebbe cancellare, secondo me, perché se YouTube cancella severamente tutti quei video che hanno a che fare col bullismo, con sì, anche col porno, ma anche per esempio riguardo a, che ne so, la ripresa di gente che viene picchiata, o comunque gente addirittura che muore, non vedo perché allora YouTube dovrebbe creare un canale dedicato a ciò che avviene nella manifestazione, nella continua manifestazione. Ed è un grandissimo controsenso, secondo me, perché è ovvio che all'interno di una manifestazione così sanguinosa, qual è appunto questa manifestazione, ci sono delle scene abbastanza forti, insomma, di gente che viene picchiata. E io addirittura ho visionato un video di una donna che veniva uccisa. Cioè, io ho visto questa donna morire proprio su YouTube, in un video su YouTube, su questo portale dedicato. E la cosa mi ha fatto un po' incazzare. Mi ha un po' scosso, è ovvio, però mi ha fatto incazzare. Perché YouTube fa tutta questa politica di mantenimento di copyright, prima cosa di tutto, di rispetto per l'umanità, eccetera, eccetera, poi crea un portale dedicato allo scempio che sta accadendo. Comunque, se lo volete vedere, sempre se non l'hanno tolto a questo, nel momento in cui sto parlando, comunque nel momento in cui mi state ascoltando, è www.youtube.com/citizentube. Citizentube è scritto CITIZENTUBE. Non so, se avete la curiosità di andare a vedere, andatela a vedere. Comunque potreste incappare in un video davvero molto sconvolgente, io ve lo dico. E come ho detto, appunto, a me personalmente non è piaciuto assolutamente questa cosa, nonostante comunque credo sia indispensabile. Sia indispensabile perché comunque in un diciamo in una situazione come questa, l'unica maniera per farsi sentire sotto una dittatura è forse forse il web, che è forse l'unica cosa non censurata. Quasi non censurata completamente, rimastaci. Stessa cosa, io credo, debba avvenire per gli italiani, per l'Italia. Se appunto i giornali italiani, comunque l'informazione italiana, sia sui giornali sia sulle TV, non è quella che ci. Non è quella reale che ci vogliono far sapere, perché è così, fidatevi. L'unica maniera per andare a sapere, per andarsi a ricavare il materiale, è andare sul web, su internet, e informarsi, informarsi comunque tramite vari giornalisti che scrivono sul web. Primo tra tutti, alcuni di voi sicuramente lo conosceranno almeno di fama, è Marco Travaglio, che ogni lunedì ha su YouTube e su beppegrillo.it un appuntamento che si chiama Passaparola, che dura pressoché più o meno 30 minuti, in diretta alle 2, e comunque ogni volta il video viene messo su YouTube poco dopo, dove si parla, dove insomma Travaglio parla un po' di tutto lo schifo insomma che accade. E proprio come hanno detto Matte e Graz di Nowherecast, che ne parlavano appunto la volta scorsa, che piaccia o non piaccia, Non so se la volta scorsa, sinceramente, comunque, mi piaccia o non piaccia, è una persona informata, è uno dei pochi giornalisti che non ha paura di raccontare ciò che accade veramente in Italia. E detto questo, io credo di aver sforato davvero tanto per questo inizio di podcast. Spero di non avervi annoiato. Comunque, c'è ancora un'ultima canzone. Sempre presa da Giamendo, o Giamendo, ma ancora non l'ho capito, .com. Sono di nuovo degli artisti spagnoli, non sono gli Animadversa, ma una sorta di, credo sia una sorta di ambient rock. Sono gli Aeroplano 21 e questa è Vuelve. Io sinceramente non credo di essermi dilungato fin troppo per essere insomma questo prima puntata. Io chiuderei, però spero insomma di non avervi annoiato, spero di non aver deluso le vostre aspettative, insomma credo, come ho detto prima all'inizio, che ci siano delle cose da migliorare sicuramente. Spero insomma in alcuni consigli, magari anche dagli stessi podcasters che forse sono in ascolto. Semmai insomma questo podcast dovesse essere apprezzato, cercherò di produrre un'altra puntata, credo la prossima settimana, perché proprio alla fine della prossima settimana non ci sarò, sono in vacanza. Comunque insomma, vedrò di fare una puntata bisettimanalmente, quindi ogni 2 settimane una puntata. Poi ovviamente dipenderà dai casi, potrà darsi che insomma sarò occupato, quindi una puntata magari slitterà, vedremo. Io comunque personalmente sono contento di aver fatto questo podcast. Forse devo delle scuse a chi magari si credeva di trovare qualcosa di più. Forse sono troppo catastrofico, non lo so. Lo lascio dire a voi. Prima di chiudere, però vorrei ricordarvi nuovamente l'email, insomma, l'unico mezzo che avete per mandarmi a quel paese o per minacciarmi di morte. Ma comunque consigli sono le mail più gradite. E la mail, come ho detto prima, è Nerdocast, scritto esattamente come Nerdcast con una O in mezzo tra nerd e cast, dunque Nerdocast, @gmail.com. Mandatemi tutte le vostre minacce, non so, tutte le vostre maledizioni, io comunque le leggerò, risponderò con piacere. Detto questo, io vi saluto, spero alla prossima settimana, sempre se, non lo so, qualcuno, un poliziotto cattivo è venuto e mi ha rapito, non lo so. Spero appunto di ritrovarvi alla prossima settimana e di introdurre forse le rubriche, non lo so, vedremo. Per il momento, statemi bene, grazie per aver ascoltato e alla prossima, arrivederci.